Cambio, cambio. Provincia di Salerno chiama K. Provincia di Salerno chiama Brecco. C'è qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, 10. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Chi è? Carici. Hola, attenzione, 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Arrivano un bel furto, la fondoscala. Vai che la ghigina. Cappa. Già gli ho detto mio babbo. Allora cosa mi ha detto? È quello che ti ho detto io, ah, fossi andato per la ghigina, mi ha detto. Ah, così è. Non c'è un buon legame. Vabbè, io non posso dire niente, io ho riferito e poi tutto il resto non so niente, no comment. Avanti, chi è? Chi è questo? Andare in gioco, c'ha Dio Sacchizzotto, mi pare italiano, sardo a me mi pare, no spagnolo. Chi è che chiama? Avanti. Questo è Federico Vuibo. C'era uno poco fa, il tuo furbacchione. Così è. Ma parlavo e questo qua mi registrava e rimandava di fuori in propagazione, era, mi rendeva, dicevo Brecco Italy, operatore Roberto, e lui me lo rimandava 10 volte, Brecco Italy, operatore Roberto, poi ha cominciato a punire musica, ogni cosa che dicevo lui la rimandava. Ricordate lo babbo della cecciate. Attenzione chi chiama, avanti chi chiama. Poi sono in FM uno sopra l'altro, non se ne comprende nulla oggi, ci arrivavano a 9.40 poco fa in FM. Cappa, arrivare per aggiuntare una deteriorata, in Sicilia 9.40 Radio 5. Ah, cosa c'è scritto nella vostra macchina di servizio quando andate a purificare le bombole? C'è il numero di telefono giallo, con la scritta gialla. Non siete voi quello lampo, ragazzi? No, non ci teniamo niente. Io ce ne entro ad uno voce, a Giumma mi sono fermato, a Giumma non me ne messa. No, siamo noi, no. Poi si è messo a ridere, gli ha detto, dai, non è niente, non ti preoccupare. Esci tu, cioè, dove era la precedenza? Io mi sono fermato, ho visto che lui probabilmente non mi ha visto, mi sono fermato. E si è scusato, però non c'eri tu, ho detto, boh, forse non è Antonio, sarà una traditta. No, una traditta, no, non traccia le scritte gialle laterali col numero di telefono. No, capito, no, queste sono verdi. Non sono di operare Valerio, no, che sono mezzo mancante. Era un bel veloce, un ragazzo giovane, per me ci avrà avuto una 39 anni. Sì, sono gli cicimiati, so. No, non li conosco, ci ha messo a ridere come per dire che ho sbagliato, dai, ha messo la colpa. Già riconosco io, già. Sono più macco dell'altro, so. Ancora Lugabo rifuma. Ma le provate bene ancora le bombole, no? Quando si trova un cane rossi, guarda che ne è bastato tutto un macchine. No, oh, bisogna stare attenti se c'è il carico, se prendi un colpo, cacchio, ti si caputeggia la macchina, magari non scoppiano, però bisogna stare attenti comunque. Vai casino, vai, intanto state le bombole, perché bisogna stare un po' attenti, ma ne ho visto tanti me camminando, ho detto, mica c'è un carico pericoloso, non si carica dei bani, no? C'è una legge, devi andare un po' più piano, devi andare tranquillo, non devi correre, no? Poi bisogna legarle bene, molte volte sono buttate così in alto, una a fianco all'altra, poi cresce da una parte dall'altra. No, già, tranquillo. Ma cos'era? Bombole verdi erano, per caso? No, non me lo ricordo, era uno strada bianco e c'era scritto, guarda, non ci metto la mano su poco, però mi sembra lampo, gas in verde. Le vecchie macchine di Pisto Rossi erano. Cazzo va. Ma come stai uscendo tu? Sempre c'è quello lì. Ma senti questo fumo, tipo un bip, invece l'hai fischio tu. Capo, no, stavo controllando una cosa, aspetta che... Devo fuori fare la tarazione qua. Hai un'ora amara. Aspetta un attimo. Oh, gli ha cambiato il peso. No, non capisco qua. Adesso va bene. Ehi, ma non ci attaccare niente, dimmi. Tanto. Mancanti, sì. No, vedi, quello si può far fare giochini col coso, attaccare stufette vicino. Stai attento che sfasci tutto. E guarda che me ne intengo me. Non so Gucci Pittume. Scusa, se te lo dico. No, non sto dicendo quello, non ne dubito, però molta gente dice dai, non rimasti nudo, attacca chi su muovi questa valvola già non fa niente, bisogna stare molto attenti. Non sto parlando, tu magari ne sai più di me, non sto dicendo quello, però sto dicendo molte volte uno con la scusa dice che proviamo questo lineare, proviamo ad attaccare questa valvola, transito di me, dimenticate, perché a meno che non prendi apparecchi super professionali e fatti da gente che lo sa fare, a valvole quattro larghe non riparte nulla, come qualcuno mette i microfoni di Rizzi su quel tipo di radio, se gli arriva una tensione sballata è crebbe tutto. No, ci deve andare la sua cosa, ci deve andare, no, no, è così, no, chi ci andano i trattati con un baracchino, se poi vuoi un amplificatore a valvole per questo c'è, devi togliere i soldi, devi cacciare i soldi, però esiste per questo apparecchio qua. Allora la cosa cambia, ma che andata a Chighisso, mamma di Durchi. E certo che c'è, costa un po' di soldi ed è un ottimo apparecchio, tira fuori 700-800 watt, io l'ho visto, come si chiama, quello che fa la Magnum, l'ingegnere Frignani, che è un genio su tutte queste cose, eccetera, eccetera, l'ha vantato tanto, ha detto un ottimo, grande, grande apparecchio, lui si dice vita e miracolo di tutti perché ripara tutti quanti gli apparecchi di tutti i marchi, oltre che li costruisce, è numero uno quello, in Italia non ce n'è per nessuno, in tutto il mondo esporta, è avvantato molto, ho visto la prova che ha fatto di un apparecchio della Kenwood, il lineare l'ha avvantato tantissimo, ha detto ottima costruzione come coso, come progettazione e tutto, e questo è uno di quelli che poi li prende, li modifica, li fa diventare più potenti e tutto, anche di altre marche, e quello ti fa qualunque cosa. Ma cosa stai dicendo? Natalino. Che è questo? Avanti che chiama la Sardegna, avanti. Avanti che chiama la Sardegna. Non mi vedo incazzarmi, cazzendo. Quello è un FM, comunque ce n'è uno in M che è zona bassa Italia dall'accento, l'altro mi sembra che era Austria in FM. Africa, come ti diciamo? Mi è Natalino, e beh, cosa combina di Natalino? Fura se busato. Come ti sei chiamato, Nio? Guarda che ti ho riconosciuto subito, mi. Già, lo so che mi conosce. Scappa, io conosco sempre a lei. Ma ti immagini, mi ne piglia il microfono e chi c'hai da quando non devi chi c'ha più. Perché anche clienti da quelle parti c'hai altro? Dove? Non abita Natalino o c'ha le zone del Buttu? No, io ho clienti dappertutto. Qualcuno ha già la porta ogni tanto. Tu prevalentemente sei parte di sopra, no? Tutta la zona alta. Sì, ma dove mi chiamano io vado, non è. Cioè, è sempre travaglio me. Bisogna fare la casa, bisogna mangiare, non è più come una burca, no? Ci mancherebbe, ma dico, tu rimani solo Sassari, se ti chiamano, se posso dire, a Sant'Orsola, lì punti, ottava, ci va lo stesso, ti capita di andare. Però no, non ci scendo per una bombola, no? Qualche ristorante magari che c'ha roba grossa. Sì, ottava c'è a San Giovanni, porto le bombole all'associazione, il passo soccorso, me ne porto 4-5 ogni volta che scendo. Fatto soccorso, dove sono arrivate delle bombole? C'hanno il coso per mangiare, hanno, è un'associazione grossa. L'associazione di cosa? Guarda, com'è la Croce Blu? Già lo conosce a Rino. Ehi, a tutti e due conosco. Ma non lo so così sono tutti e due ancora. Comunque tutti e due hanno lavorato con me. Ore fanno e quindi hanno la mensa, cioè hanno il coso, la cucina. Ogni volta ne porto 5, 6. Ma tu a San Giovanni o ottava? Non l'ho compreso. A San Giovanni ti ho detto. Infatti ho capito ottava, ho detto, ma ottava non ne ho mai visto io di coso. Ma Rino chi? Con la S inizia il cognome? Non Rino, no, come cavolo si chiama? Mi sono sbagliato, lì c'è Rino Sodini, è della quell'associazione che c'è qua vicino, come dice già. No, tu stai dicendo a lui. No, c'è un altro nome, c'ha. Non mi viene adesso. Quello che ha nominato tu, il cognome, siamo molto amici, tutta la famiglia, la mamma, vabbè, babbo e muti. Siamo amici dall'infanzia. Quello però era il polisoccorso. No, non lo so che stava con gli ambulanti, però non sapevo esattamente con che cosa. E tu, Natali, con chi? Io sono stato alla Croce Blu, soccorso sardo, polisoccorso. Me la gira ad un po', guarda, praticamente. Quelli di passo soccorso, quando c'era andare a Cagliari, mandavano a me. Ma ci voleva la patente speciale per le ambulanze, Natalia? E prima ci voleva, adesso no, penso di... No, non lo so se adesso hanno introdotto la D. Perché, però per quelli dell'ospedale ci vuole la D. Quello sono sicuro, perché lo stavo facendo io, quello per entrare all'ospedale, e ci vuole la di pubblica, perché sono macchine di amministrazione pubblica, sono della regione, quindi ci vuole la patente del pullman per poter portare quelle dell'ospedale. C'è Daniele di lì, quello il CB che sta qua con noi, quello mi sembra che adesso si è andato, non so se mi ha detto a Ussi o a Tizio, a Usini. Comunque non lo so adesso se ci vuole la patente speciale per l'ambulanza. Sapevo che l'avevano tolto, c'era il KE prima e io ce l'ho quello lì. Poi l'avevano tolto, adesso non so cosa ci vuole. Solo per quella dell'ospedale lo so di sicuro che ci vuole la D. Quella che io la D pubblica, quella per portare i pullman di linea. Allora Natali, funziona così. Puoi averci la patente normale e poi ti fanno un corso di guida sicura, fanno. E basta, capito? E possono fare tutti i corsi, io ce le ho tutte le patenti, basta, sono il più forte e blu. Natali, fa un po' quella di Versailles si battente. Con l'età. No, la prossima volta che mi scade, che devo rinnovarla, mi posso dare io la B, perché io quella lì non la posso più mantenere, perché solo per il CQC, siccome ce ne avevano preso il K, no? Ci hanno dato il CQC, cazzo, l'ultima volta ho dovuto pagare 350 euro nei bari, sino di più puro, e un mese di scuola guida mi sono dovuto fare. Adesso invece ho usato il voto, quindi mi posso dare chissà di la macchina, e buh. Ma tanto non lo stai lavorando, lo sai che ho usato in bar, la batterina. Magari. Via babbo. Bianco. E che tu che hai bruciato l'ambulanza, la battente, che è partita da via? Non lo so, buh. Comunque, una cosa... Ne hanno bruciato due, mi sembra, di due associazioni diverse. Adesso sta diventando il racket, tipo le agenzie funebre si fanno la guerra uno con gli altri. Allora sono troppi, prima ce n'erano due o tre, allora bisogna una decina, solo a Sassari, forse anche di più. Attento per il vela! E a Lucariello. Ah, c'è Lucariello, già visto. Ma ti è toccato a disegnare così forte Luca, sei talmente forte da manco di comprendo Gla. Ma adesso sono forte sempre, soliti fatti KK. Buonasera a tutti, sono tanto a salutare, basta, già mai sto andando. E per forza c'è Claudio Perivella, cuocuomane. Cuocuomane. Antonio, di chi c'è l'ambulanza che hanno bruciato? Lì c'è un fatto un pochettino strano, c'è un fatto un pochettino strano, ma è che cosa che non torna, beh. Già lo so, poi a un altro ne avevano bruciato, ma sembra che sia una catena di disfitti. C'è qualcosa che non torna. A uno pure una macchina, ma chi so saputo che personaggio è? Me l'hanno detto oggi. Diciamo che deve stare al suo posto, deve stare, cioè non può rompere le palle alla gente, ci è taggiunto tutto, capito? sono vendetta, sono, c'è qualcosa che non torna lì. No, lo so, avanti chi chiama, avanti. Vabbè, chi si può entrare, può entrare, cambio, cambio e non entra. E beh, Claudio, cosa combinè? Nulla, qui, papà, dove sono adesso? Adesso guardo un po' i TV, adesso me ne vado a prendere una fama una sigaretta, poi la televisione e poi niente. Dai, vi saluto, statevi bene, io ogni tanto sto a salutarvi. Ciao Antonio, Natalino, Roberto e a tutti gli altri. Ciao. È importante qua che non ti reghi la gatta, come ti fai una musica che vanno in pensione, con la sedia al gondolo, fuori, seduti e lasciamo passare il tempo. Ah, ciao salottino, con le bimbe, mi siedo lì, non si è retto. Poi adesso, dalla prossima settimana, inizio a portare la TV, ho già preso il coso per la parete, lo metto fuori sotto la veranda, inizio il mondiale l'11. Già rimane trovata la radio, gappa. E a nota, poi c'erano tipo quanti vasi nei rivecci, quelli arrivati a una certa età, rimangono sempre tancati in casa, la sedia a dondolo, la copertina per le gambe, se no pigliano il freddo. E allora, no, e sto facendo roba già, lo sai, mi sabato deve portarmi il fratello di Luca che c'ha il motocarro, i viaggi li ha fatti tutti lui, la roba me l'ha portata per lui quasi. Deve portarmi quei tubi di serrate su mansarda e poi c'è un divanetto, un tappeto grande, persiano, insomma, le cose che sono rimaste là. Sto portando via, poi basta, ho finito. Così mi metto a posto bene il Cavverio, il magazzino che c'è nel Cavverio e basta. Va bene, dai, ciao a tutti, divertitevela, baci e abbracci, ciao ciao. E vai a tu, ciao Cla. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao ciao. Ma perché? Come ti sto arrivando, non bel male? No, oh, un bel forte di radio, il segnale già è forte, ma la radio non ti avevo riconosciuto perché era troppo forte, sei molto più forte di loro come radio. E io beh, sempre il Galaxy sto usando io, Galaxy Saturn Echo col Tami più 3. E infatti sono circa una trentina, 25 modulati, dai. KK, ciao ciao! Ciao Claudio, comprati il sigaro e la scia pure mi per la sedia a dondolo, quando esci in veranda. Eia, eia, la cosa mi ho comprato, la, come si chiama? Quella che si mette per il caldo, mi. Ma cos'è questa cosa? La maglietta, la maglietta. Dubbia Claudio, allora, tu già stavo decisfogliando proprio la maglietta. Cazzo c'è, è giunto il vicino di casa, cazzo, ma Claudio non c'è, Claudio, a cazzo non vedi che sta decisfogliando, non voglio manco con i cini. Cosa è questa cosa? E c'è una maglietta che si muove in capo tipo rigosi, di messicani. Ah, quei capelli di paglia, mi. Ah, spizzina. Io credo non sarebbe con i cini. Quella maglietta che... Ah, tu hai la maglietta, la mascherina. Tutti incappucciati. Ma non c'è Claudio, cazzo, l'ho visto adesso. No, non sembra male la... il giardiniere. Allora, cazzo, il giardiniere mi mise. Anche io me ne manco lo gioco. Va bene ragazzi, ciao, baci e abbracci a tutti, vai Roberto, ciao ciao. Ehi, dai, piano piano poi si mette qualche bestiame, Claudio, si inizia due pecore, tre galline, che coso, quella di buone, anatra, qualcosa, che si fa di cambia mestiere, dai. Ehi, sto presentando quella salsa grande, vabbè, che hai visto tu, quella del Cavverio, e lì devo fare il night. Saggi. Ok, dai, ciao Claudio, ci sentiamo, passa da lui, già lo sai dove sto. Vai a tarì. Ciao Claudio, allora avremo Rivalletti in rosa? Ehi, Rivalletti secchi, sì. La musica te la porto io. Allora, tu arrega la musica e io già fino a poco di gozo, di zocco e chissà zona. Zocco e tardoni, oh yeah. Gesù Cristo mio! Chi divisi mio Antonio mi? Ma da caccia tu, Giuli Fell! Che è avanti? Che è che ha riso? Avanti! Sì, ma adesso è preparazione, oggi è micidiale preparazione. Ero sul 45 stasera, come ci veniamo a casa di mamma, non è più 20. Ho sentito un attimino anche a Massimiliano, tutti i furti arrivavano. Ma c'era l'Austria, arrivava un FM a fondo scala, mi arrivava a me. Poco fa qua su 10, ehi. Vabbè, dai, vi saluto che spengo tutto. Ciao ciao. Sì, ciao Claudio, vai Antonio. Ciao Claudio, dato che Antonio non risponde, ne è capato a burlarvi Sansura. Ehi, a capo, sono qua, sono. Ciao, ciao, tutti e due, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ehi, a roba avanti. Ehi, io non ho già salutato a Claudio. No problem. Stavo dicendo, questa ambulanza diventa un accoso di business. Troppe ce ne sono, si fanno la guerra uno con l'altro. C'è qualcosa di strano. Che li paga la regione, sono tutti pagati di viaggi, non è compreso. Allora, poi chi è che non li paga? Quando vengono a fare un soccorso, una cosa, chi è che sta? Dice è un'offerta. E che offerta? A me mi dai 50 euro. Non so, vabbè, pure loro ci la devono pagare, da qualcosa devono campare. Ha bisogno di gasolio, ha bisogno di manutenzione l'ambulanza, non è così, no. Qualche cosa ridda, vivo, senza nulla no, non puoi uscire. Ma, chi c'ha un altro discorso a parte, canto di vaga, Cioè, pure a farti dare di là, è un bel casino, me. Dillo a qualcuno che sta qua in frequenza a vedere se gli danno i soldi. Prima di darglieli dice, bisogna aspettare un pochettino. Non so, devi aspettare, deve. Buonasera. Buonasera. E allora, che c'è? Ciao, tu. Che c'è? Stiamo parlando di ambulanze. No, vabbè. No, che ne hanno bruciato un paio a Sassari. Non vedo. Una da poco e poi tempo fa una, stava dicendo che sta diventando una cosa troppo business. Circolano troppi soldi per cui si fanno le scarpe uno con l'altro, tipo come c'erano il periodo delle agenzie funebri, cacchio che uno ne prendeva il morto a quello, poi quell'altro, e poi hanno fatto un'associazione, una specie di cooperativa e si sono calmate le di sindacato, dai, si sono un po' calmate. Non ho capito. Ma l'ambulanza serve, la gente cretina, l'ambulanza serve sempre. C'è un sacco di gente che ha bisogno di queste cose, che imbecilli. Ma sicuramente non l'ha fatto il paziente a bruciarla, deve essere qualcuno del giro loro stesso. Cose strane ci sono in mezzo, qua c'è burlacca di uno che non è pagato, perché purtroppo in mezzo a questi, a questa associazione qua girano un bel di pezzi di merda, cioè magari poi ti buoni fuoco un'ambulanza. Vabbè, una figlia di Agunego, no? Un'ambulanza che può servire a uno che ha bisogno. Lo so, purtroppo gira tanta di quella gente che ci sono un sacco di cose dietro, ci sono, a volte anche per qualche dispetto, tra associazioni. C'è anche Natalia, avanti per Eugenio. Ciao Luigi, buonasera. Tutta roba di soldi, tu segui i soldi e c'è la verità. Scusate un attimino, cioè uno che fa tante ore lì dentro, allora vogliamo dare un cazzo di rimborso, scusate la frase, cioè è un travaglio, cioè io non avrei, cioè se non mi avrebbero dato niente non ci sarei andato, la verità, o avrei fatto un mezzo turno la mattina, e non mi avrebbero più visto per una settimana, cioè è un lavoro fare quella cosa lì, fare tante ore, è giusto che ci sia qualche rimborso, è giusto. Catta, se no è occhino, cioè ogni volta che esci da casa ci vuole i soldi per andare lì, devi, cioè quando dov'è devi spendere i soldi per la benzina, e il panino non te lo devi mangiare, e quello lì non lo devi fare, cioè secondo quante ore fai? Cioè per valore di dinamme. 24 ore fanno quelli che fanno il 118, fanno 24 ore dentro e 24 ore fuori. È giusto che ci facciano dare qualcosa, forse adesso li hanno un po' dimezzati, perché è da gribarsi e fare tante ore così, forse c'è qualcosa che li hanno dimezzati, mi pare, però a stare un giorno intero già, cioè ci sono giorni che non hai, non vai, cioè, c'è, non c'è neanche un minuto di spiraglio, cioè c'è sempre andendosi. Ma datelebbe un'idea a che cosa, se no non vale la pena farlo per volontà, ma volontà di cosa? Cioè, ogni giorno che tu ci dà a casa sono soldi. Ehi, ma non sono più volontari, sono assicurati e stipendiati. Il volontariato non esiste più, non hai capito? Quelli che sono volontari non le possono neanche fare quelle ore. Vanno a tempo perso i buchi, però non fanno il 118. Quelli che fanno il 118 devono rimanere la squadra 24 ore, fissa. E non ti puoi muovini, non puoi andare a fare nulla. Perché se devi uscire, tanto per dire, a comprarti le sigarette, devi uscire tutta la squadra con te. E con l'ambulanza devono uscire. E devono avvertire la centrale pure. Non è così. Mi sa che stanno facendo, ce n'è un turno la mattina fino a una certa ora, fino a l'una, e un altro turno la sera. Mi sa che li hanno dimezzati perché la gente stava lamentando troppe ore. Ma non lo so se si può fare, mia di mezzo, perché è tutto dall'ospedale che dipende, mi. Capito, là? Devono stare 24 ore lì e 24 ore liberi. Perlomeno era così quelli che facevano il 118. Dopo quelli che fanno i trasporti, i volontari, quelli non ne fanno, no, di 24 ore. Fanno i turni. Buonanotte. Aspetta che c'era oggi, non batti oggi che stava parlando oggi. Ha detto che il 118 è già hardware. Il 118 sono armati di dottore a bordo, capito? Il 118 è un'altra cosa, da quelli privati, tipo Avis, queste cose qua, Santa Maria, Croce Santa Maria, tutte quelle chiatte lì, quelli sono privati. Comunque, chi fa volontariato, il volontariato? Dottore, come dottore presenta, non lo sono stipendiati comunque, se ce lo vogliamo chiamare stipendio, non posso garantire io, non posso garantire. No, non è più così, Natali. C'hanno un tot di ore, c'hanno, e basta. E poi deve cambiare, deve essere un altro turno. Guarda che se vuoi chiedere a Federico, glielo dico. È così, qualcosa. Non è più come una volta, no? Avete parlato in due, è passato Antonio qua. Natali, cosa stavi dicendo tu? Che io sapevo che erano assicurati e stipendiati. Perché io mi ricordo che una volta l'aveva denunciato un amico mio al padrone di un'associazione, allora viene fatto chissà cosa, che viene assicurati e stipendiati. Vai Eugenio. Eugenio! Forse si è allontanato perché aveva parlato in contemporanea Natalino e Eugenio. Non ho capito certo, mi allontano o sto uscendo. Cos'è Eugenio? Vabbè, forse si è allontanato perché avete parlato uno sopra l'altro. Quando parlava Antonio c'era Natalino, e dove era Natalino o era Eugenio? Vabbè, lasciamo un po' un pochettino di spazio. Ti stavo dicendo che è così, mi sa che hanno cambiato le regole. Devo chiederlo a Federico quante ore sono. Perché non più di 8 di ore non possono più fare. Non credo, 24 ore è assurdo, dai. Magari fanno 8 ore e poi c'hanno i turni. No, la squadra deve comunicarlo quando smonta la centrale, non hai capito? E quando entra la squadra nuova. Non è Gaius Ubuntu, dipende tutto dall'ospedale. Tu devi rimanere nell'associazione 24 ore fisso. Ma tu sei mancante. Hai capito? Anche se non succede nulla. Non è così, Natali, che hanno cambiato le regole. Più di 8 ore non è buoni fa. Ma se hanno cambiato, non lo so. Al soccorso sardo era così. Facevano i turni come i vigili del fuoco, uguale. Sì, ma 12 ore, i vigili fanno 8-8, oppure dalle 8 del mattino, dalle 20 alle 8 del mattino, dalle 8 del giorno dopo, dai, non più di 12 ore, poi c'hanno il riposo. Tu magari mi dici sono disponibili 24 ore su 24, però c'è un turno per dire ti fa 8 ore, l'altro poi c'è che fa altre 8 ore. No, io sapevo, mio cugino era vigile del fuoco e stava 24 ore dentro, e poi c'aveva il riposo. il vigile, fa 8 mattino, 8 di sera, oppure 8 di sera alle 8 del mattino, non possono fare più di quelle lì. Poi c'hanno il riposo, poi c'hanno il salto turno, non possono fare più di 12 ore. Allora non ci hanno fatto di positivi. Comunque San Corso Sardo facevano 24 ore, c'ero io e lo so per quello. Lui c'ha una di Drenzo e la Bui una di Libera. Vediamo se Eugenio è rientrato. Eugenio, ci sei? Sto già arrabbiato, no? No, ma ho sentito forse che si è allontanato, buh, non ho capito, perché stava parlando Natale, ne era uno sopra l'altro. Scappa. Dunque io so che sì, magari il servizio sarà così, però io so che ogni tot di ore cambiano, anche perché non puoi c'è un'autista di tanto no, a fare servizio, non ci può stare. Devo chiedere una cosa, io te lo dico com'è. Ma io ti sto dicendo com'era al soccorso sardo, che non gli dai alla centrale. Devi dare il nome della squadra, capitola. Quando montava la squadra nuova, dicevano chi erano anche i componenti, capito? Non è Gussino. Allora non c'è problema, quello lì glielo puoi comunicare sempre, non è che si vende chissà cosa, no. Quindi c'è cambio turno e compone, poi quelle sono le regole tue, sono. C'è tazzo, tiri il pugno e c'è sono abilitati, c'è una persona abilitata lo può fare. Ogni tot di ore può cambiare, può. Cioè non è che mi vuole la laurea, no. Io so qui Antonio, cosa ne so, Natalino, cioè quei componenti lì vanno a girare, vanno, poi se c'è il cambio o se qualcuno, cazzo, se qualcuno è in emergenza, cioè che se ne deve andare per forza, cosa deve fare? Non lo può fare, no, scende quello là con l'altra ambulanza, scende e fanno lo scambio con il guido di Nazza, compreso, Magnacazoffe, cioè c'è sempre lo scamottaggio, cioè se tu sei in servizio giù che magari devi cambiare o c'è un'emergenza, ecco, o rientri in sede, adesso non so un cazzo di Covid come funziona, ma ogni tot devono cambiare equipaggio, ogni tot di ore, cioè ogni tot di ore deve cambiare equipaggio. Ma te lo ricordi la buona anima di Cagliari? Chi su va via 24 ore? Quello lì. E quello lì ha denunciato al signor Angelo per storia di soldi. Infatti dice che li avevano assicurati tutti e messi in regola praticamente, se no gli toglievano l'appalto a signor Angelo. Ma Giovannino sta dicendo, come? Giovannino Cagliari, buon'anima. No, un altro. Come giù è, non ti chiama. Ma momento non ho, ma va. Vedo di Roberto, che travaglia il comune, Roberto, che è autista del sindaco. Ho capito, fare un casino che ha combinato non sarebbe manco potuto, vabbè là, manco potuto andare più in 118, ma dopo quel tempo è stato fuori, esattamente che ha caputato l'ambulanza. E quello non lo sapevo, la verità. Io sono fuori dal giro da tantissimi anni, infatti ho detto, se fossero volontari, io fossero volontari. E se non vogliassi pagarli. Hai capito? E allora grazie che non ci sono più andato. Se mi volevano mi dovevano pagare. Ma guarda che ci sono ancora a Minatali, c'è un mio amico che. Cioè o li fa la mattina o li fa la sera, poi basta, no? Cioè, poi magari ogni ne fa, o cosa ne so, durante la settimana gliene fa due e poi basta, e poi ci rivedono l'altra settimana. Ma quelli sono volontari, quelli del 118 non sono volontari, capito Lion tu come il discorso? Perché tu devi garantire il servizio alla regione. No, c'è anche qualcuno volontario che fa mezzo. Cioè, con lui è una scelta tua. Però lui fa un certo tot di ore e poi ce ne va e c'è un altro. C'è anche un volontario, c'è. Ma non fanno i 118 i volontari, fanno solo trasporti. Aspettate che c'è Eugenio. Da una clinica all'altra. Aspettate che c'è Eugenio, avanti Eugenio. Ho visto che sono le tue portanze. Hanno messo la portanza? No, forse sono solo due. Ma certo, l'avete chiamato? Che sono senza parte. Che è questo? Lo senti, Anto? Che è avanti? 9:20 è la portanza. Andiamo, andiamo, cazzo! Che? Avanti, devi fare, avanti. Andiamo subito. C'è io la portata. Ah, però bravo, non mi dovrà far fare anche da io. Ah, ora lo basta. Che dire? C'è una portata. Ciao, Gio, ma la passa anche a me? No, assolutamente. Ma è anche malata. E ce la faccio arrivare. Allora qua passa solo Antonio, tutti gli altri li schiaccia, Natalino non lo so, comunque a tutti gli altri li schiaccia, Luca, Eugenio, forse c'è se ne è Natalino, è quasi 9:20 da me. E boh, non lo so, io so che qui arriva fondo scala. Natalino tu lo passi comunque. Qua è 9:20, c'è perso il tuo segnale secondo me. No, tu lo passi, tu Robè lo passi alla grande. Mi dispiace per Eugenio perché Eugenio e Luca li schiaccia di brutto, perché Eugenio è 9:05, Luca è 9:10 e qualcosa e li schiaccia di brutto. Qua arriva quasi 9:20 la portata. Sì, ma me si bocchi c'è buco mucco. Ci sentiamo, sono a cenare, ciao Gio, dai, ben sentito, mi dispiace per questo qua, dai, ci sentiamo con calma, ciao, buona cena e buon tutto, avanti Antonio. Capo, non ha ancora compreso l'italiano, no? Io lo passo perché sono in mezzo, capito? Capo, ma non penso che io o con Roberto ci siano problemi. Vabbè, vieni avanti. Ma a me stai dicendo altro? Ho detto vieni avanti a vedere, ma tu sei quasi 9:40, quindi non è un problema. A me non mi disturba, cioè non mi fa niente, no? A te sotto, ma poco un peluzzino lo sento il disturbo, però lo passo di brutto. A Natalino gli dà fastidio invece. Si attendo Gigetto, Lugrebo. Natale tu sei? No, non sono io, no. No, se stavi parlando tu. No, negativo. Prova a parlare un attimo, Natale. Ehi, guarda, 1, 2, 3, prova, dai. No, ti passa, Natale. Alza un po' che ti ho rimbatto, Natale. L'ha aumentato comunque il segnale, è più di 9:20 adesso. Agita. Questo bucarotto, che bucarotto qui non si può, Dove prendere la cosa? Oioia! Ma a me mi disturba, Antu. No, lo passi. Quindi anche Natalino tu lo ascolti benissimo, solo a nessuno di noi tre ce la fai. No, tu lo crepi, lo ha niente. Natalino qua non se ne parla, Natalino è fortissimo. Non ha nessun tipo di problema. Ma penso che pure Natalino senta forte a me. Sì, è ora di parlare a te. Mi si arrendi tutto. Natalino lo supera, Natalino adesso è 9:20, quello è 9:25. Vabbè, perché io non c'ho nulla da attaccare, purtroppo. Hai visto così, un'esplosione? Io si ricopia in mano questa roba, a la faccia si ricupi. Mamma, gli dato Cappa, quanto ti arrivo adesso? Quasi 9:30, un po' meno di 9:30. Raga, che cazzo di bea, vedi? Un attimo, cosa vuoi fare, Mattari? Un guascio, ma cosa vuoi portare a me? Un po' vuoi dire letargo e tornare di sci, attenzione che c'è torna la macchina mia. E questa volta chi trovo piglia coipi. Lo sto già dicendo, Questa volta esco io con l'amico, esco. Ecco, sentite questo scoppio, questo tipo. Già l'ho sentito, già. Parliamo tipo quei fischioni che ci hanno dato a Capodanno. Vedere che lo faccio giocare col piscio. Cappa Natali, e ora vuoi fare tu l'antumaco? Cappa cappa, vai, vieni oggi sotto, bene che te lo dobbiamo tanto, salute, tanto ti faccio guardare le stelle, ti faccio guardare, gatto. Cappa, sempre meglio, Robè? Sì, 9:30, sì. Cappa cappa, Natali a Putidini, stai calmo. Cappa cappa, ok. Robè. Ecco, sono Giulio, non l'abbiamo sentito. Ah, Giulio è un po' che non lo sento. Anche ieri ho acceso, chi c'era ieri? Guarda, ma come l'ha messo? Boh, c'eri tu e poi chi c'era? Non mi ricordo tanto. C'ero io, boh, non mi ricordo chi è. Ah, c'era Luca pure, stavamo parlando dei vaccini. E poi è entrato un attimino Condor, Marco Condor. Anche lui sta entrando poco, vabbè, più o meno tutti stiamo entrando poco. Però quelli più assidui non li ho più sentiti. Lo so. Però signori, io adesso vado a fare qualcos'altro. 21:20 più o meno sono, anche se questo orologio di questa radio mi pare un po' indietro, non lo so. Io vado a fare altre cose. Dai, già ci sentiamo eventualmente domani. Ciao Antonio, ben sentito. Beh, anche a te Natalino, ben sentito, e tutti quanti amici sul canale 10. Dai, siete tranquilli, tanto la portante prima o poi si stanca e finisce. Dai, godiamoci queste comunicazioni tranquilli. Ciao a tutti, cuoretti da parte mia. Ciao Robè, comunque c'è il modo di farlo giocare col piscio. Capito? Ci abbiamo altre frequenze in mano che lui non ha. Capata lì, vabbè, dai. Con te c'è sta proprietà, ma come non fa il dopo? Non lo fa il dopo con me. E Natali, quando è stufo, 1, 2, 3. Infatti, bisogna spaccare il culo a questa gente. E poi non mi puoi dire che non sei dumi, perché il segnale è identico. Non mi puoi dire che non è lui, Cioè, io non sto facendo numeri e niente. Se esco io, e ti bizzicheggio, guai. Cappa, cappa, dai. Ma se uno non va a rompere le scatole alla gente, ma perché uno si deve comportare in questa maniera? Boh, non capisco. Perché è un ignorante, un asino. A me non ve la vai, no. Non ce la fa a me a superarmi, Natali. E come fa a superarti a te? È impossibile. Se ne abusa con Roberto che è più lontano e io giustamente arrivo più basso di 5 dB. Però io cambio frequenza e parlo lo stesso. Cappa. Natali, a commenti ma così si buono in ogni zona per la base. Tra noi due. Zona lui. Non ce la fanno. No, è roba di zona, no. Con quello là è 9:20, quindi. Qua arriva a fondo scala, perché è anche attaccato, capito? Ma non è così. Quel fondo scala che c'hai tu, io col mio non è a fondo scala. Ma io lo posso anche abbassare, volendo, ti dico il segnale giusto che arriva. Cappa cappa, se riesci che abbassi, no, perché scendi scintille. Ecco qua, mi sono tornato alla normalità, sono tornato. Baciamo pure. Così va, va grande va. Infatti, così pure lo passo io. però non c'è problema, tu lo ammazzi qua, no, lo ho niente, beh, siamo vicini. Infatti. Beh, commetti che ci si pone con la macchina, se si pone con la macchina, tra me e te, cioè perlomeno a me non ce la fa passarmi, non lo so a te, però a me no. Sì, a sai bongo mia, comprarmi a che cosa domani, sono attenti. Capa, si compita la radio a pittorra, secondo si muove la potenza. Sì. Non ce n'è bisogno, ci abbiamo le frequenze per poter parlare, che lui non ha. Gappa, cosa vuoi va? Boh. Cioè, ma fa cosa fa queste cose? Non capisco. Ma che è un ignorante, non lo vedi che è ignorante? No, non capisco perché fare queste cose qua, essere così malvagi, così cattivi. Cioè, Facco, ma mettiti a parlare. Mettiti a parlare e stai tranquillo. Ma perché, ma cosa devi fare queste cose? Ma cosa ne hai? Penso che se parla lui gliela metto io la portante, però io non sono vigliacco, io glielo dico che sono io che gliela metto. E non lo faccio parlare con nessuno. Oh, non è tra più, no. Sì, la faccio su via, più. Beh, ma non è giusto, non è giusto però. Vabbè, tanto da. Io me ne vado a coricarmi che mi guardo un po' di TV. Tanto, no, siamo rimasti questi oggi, non per entrata, un'anima viva. Allora cosa vuol dire un'anima viva? Tutti ma niente. No, ma da prima entravano tutti verso le 6:30, le 7. Non è entrato nessuno. Io, tu e Roberto. Saluta. E Claudio, parla. Antonio. Dica. Dimmi, concede, tu ci sta a metà. Concetta. Parla. È uscito, è uscita a metà, e sei uscita. Ti saluta anche Sara, Ringraziala da parte mia, Sara, e dille che la voglio bene. Ha detto grazie, ha detto, ti vuole bene anche lei. Vabbè, dai, buonanotte. Prego, ciao. Ciao a tutti. Adesso ti giochi col piscio, mi. Niente guaccia, ma poi cosa fa che si gozzi, non capisco, boh. Cioè, ma chi non andare in neuropsichiatria, ga? Sì, allora, sto chiudendo, a futti dirmi, se è guaccia uno è guaccia. Ciao. Chi è? Anto. Dica. Non è rimasto nessuno. No, l'ho appena chiuso, l'anno. Non ho capito. Mi sono arrivato adesso. Accappa. Informati per quella situazione, vallo. A vedere cosa si può fare. Adesso sento questo mio amico, vediamo un po' cosa mi dice. Anche mettendolo, cioè, proprio regolare, mi capito. Regolare ti costa, non so, all'anno. 30 euro. Io lo sapevo che sia. Non sono sicuro, se è 30 o 50, non mi ricordo tanto. Ma fai che sia anche una di borso di 31 euro, ma anche se non è, va bene comunque. Cappa, cioè, ma se a me mi dà di tutto, va bene, 100 euro no, saranno, cioè, 30 euro all'anno, così saranno. Però se a me mi dà tutto, una ricetta e tutto, a me mi fa bene. La ricetta? La ricetta! Ah, sono questa la ricetta! Ma perché non la dà lui? Ma mi interessa di acquistare, fanno una ricarica, forse però ti mandano il codice, per attivare il... Per attivare il coso, no? Il... No, ma che luce, la sicca che non lo puoi usare. Aspetta un attimo,